Ciao a tutti gli ascoltatori, siamo qui assieme a Rosa Amorevole, la presidente del quartiere Santo Stefano, e siamo in occasione della presentazione di una rassegna cinematografica rivolta agli adolescenti. Sentiamo in particolare di cosa si tratta. Beh, questa è la nostra tradizionale rassegna per gli adolescenti che facciamo presso il Cinema Antoniano. Sono quattro serate, quattro martedì che inizieranno da domani, in cui proponiamo film per adolescenti, di solito film non reperibili, difficilmente li riusciamo a vedere al cinema, e se non per una serata o due. E vengono organizzate queste quattro serate d'ingresso totalmente gratuito, e al film segue un momento di discussione o con il regista o con qualche esperto che affronta il particolare tema che è stato trattato nel film. Sì, qual è la particolarità di quest'anno? Quest'anno tra i quattro film, per un film, quello dedicato ai social network, avremo il commento organizzato tutto e fatto solo dai ragazzi, cioè gli esperti saranno i ragazzi, quindi sarà una novità che vogliamo goderci a pieno, perché potrebbero darci anche degli input molto interessanti da utilizzare poi nell'attività educativa. Come nelle rassegne precedenti, è emersa soprattutto la partecipazione di varie fasce di età e della totale cittadinanza. Quanto questo è importante? È molto importante, perché noi stiamo parlando di comunità educante, quindi non stiamo parlando di proporre dei film ai ragazzi e alle ragazze. Infatti la cosa bella è che durante questi incontri noi abbiamo la presenza o dei ragazzi e delle ragazze che vengono da soli, o vengono con i genitori o con il nonno, o addirittura a volte, quando non ci sono i ragazzi e le ragazze, vengono magari i nonni da soli o i genitori da soli. Quindi è molto interessante, perché è un pubblico assolutamente eterogeneo e di solito che esce molto soddisfatto dalla visione dei film, dal quale magari ha tratto qualche spunto che potrà utilizzare nella vita di tutti i giorni. E ricordiamo quali sono le figure che organizzano questa rassegna? Sì, la rassegna è promossa dal quartiere Santo Stefano, nello specifico è il servizio educativo scolastico territoriale, che insieme allo spazio giovani dell'ASL e insieme all'associazione Verba Manent hanno organizzato e organizzano da anni questa rassegna.